edizione. Le 6 e 13 minuti, prima di cominciare anche da noi di prima edizione, un saluto. Ciao a tutti, sono arrivato qua a Kuala Lumpur, sono nell'albergo e niente, oggi mi sto un po' riposando. Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi. Da venerdì si inizierà a provare e niente, sono molto, c'ho voglia di scendere in pista, perché dai, insomma, dopo la gara in Australia ho voglia di ritornare sulla moto, e poi in Malesia nei test sarà molto forte quest'anno, quindi. Quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso, poi fatti i cazzi tuoi. Penso che si possa fare molto bene e niente, dai, quindi cominceremo da venerdì a sgasare, a provare di salire sempre sul podio, magari sto giro sul gradino quello centrale, che è più carino, più alto, quindi risulto anche meglio dalla televisione magari. Ciao a tutti. Siamo solo noi che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare. Siamo solo noi che non vi stiamo neanche più ad ascoltare e ad aspettare. Siamo solo noi. E il saluto va a Marco Simoncelli, ancora ben svegliati, Dan Migliorati, Peter Pescafè in regia, Viola Bottoni, GR24, tutti già al lavoro, voce permettendo. Cominciamo allora con prima edizione, subito dopo il traffico, le prime pagine dei giornali. Prima edizione. Ed eccoci come tutte le mattine a sfogliare i quotidiani in edicola. Subito uno sguardo alle borse. Tokyo in questi minuti resta ampiamente positiva, lo è stata fin dall'apertura, più 1,31% in questi istanti. L'Europa infiamma i mercati è il titolo questa mattina d'apertura del Sole 24 Ore. Grande attenzione ai mercati un po' su tutti i quotidiani. Dopo l'accordo di Bruxelles che vi abbiamo raccontato proprio ieri mattina, è raggiunto l'altra notte. Così l'Italia, guardata a vista, deve fare i compiti, sovranità limitata. Il commento sul Sole 24 Ore, Beda Romano. L'altro tema in chiave italiana sono la questione dei licenziamenti. Sulle nuove regole per licenziare, scontro, i sindacati, sciopero. Marcegaglia, una riforma serve, ora si agisca. Così invece di spalla sul Sole 24 Ore. Le due notizie che un po' si contendono, le aperture ai tagli centrali dei quotidiani in edicola, Corriere della Sera, l'Europa spinge le borse, Sarkozy salvata la Grecia per non fare cadere l'Italia, sindacati pronti allo sciopero, Berlusconi ora responsabilità, licenziamenti più facili, il taglio centrale del Corriere della Sera, dove già vi dico che l'immagine che campeggia è quella invece dei funerali di Marco Simoncelli, una generazione in lutto dice addio a Simoncelli, il Corriere della Sera. Il Messaggero, anche qui grande attenzione alle borse in apertura, accordo europeo, volano le borse, anche qui taglio centrale, licenziamenti più facili, sindacati, sarà sciopero. La Stampa, il piano europeo fa volare le borse, e anche qui per l'addio a SIC una moto romba in chiesa. La Repubblica, l'attenzione concentrata maggiormente sull'aspetto italiano e su quello che succederà nei prossimi giorni, licenziamenti facili è rivolta, e poi CGIL, CISL e UIL pronti a scioperare, e ancora sulla prima pagina della Repubblica, gli scontenti del PDL, Berlusconi faccia un passo indietro, giallo sulle firme, il giallo è quello della lettera degli scontenti che sarebbe già pronta. Il taglio centrale della Repubblica riporta una notizia diversa dagli altri quotidiani, il racconto del pentito Spatuzza, ecco come preparammo l'auto con il tritolo, via D'Amelio, così abbiamo ucciso Borsellino, la notizia ve l'abbiamo data anche noi poco fa in GR24, tra l'altro tre ergastolani detenuti per l'attentato al giudice Borsellino sono tornati liberi perché la Corte d'Appello di Catania ha ritenuto Inammissibile la revisione del processo dopo nuove rivelazioni dei pentiti che scagionerebbero gli imputati indicando altri responsabili, e altri 4 condannati potrebbero avere oggi la stessa sorte. Altre notizie sulle pagine dei quotidiani, anche questa è una notizia riportata un po' dappertutto. Torniamo sul Corriere della Sera, c'è l'iPhone in saldo, Roma si ferma. Un enorme ingorgo ieri per l'apertura di un negozio della capitale. L'illusione sostiene i consumi, è un po' la lettura che ne danno questa mattina i quotidiani. Grande crisi, ebbene, per un iPhone in saldo si blocca un'intera città. Anche sul Messaggero il Megastore apre con gli sconti. File rissa e traffico a Roma in tilt. 8.000 in fila per lo sconto, scrive anche La Stampa, che aggiunge anche un'altra notizia a fianco a questa. Amazon apre invece a Piacenza, la casa italiana del negozio più grande del mondo, 25.000 metri quadri in mezzo alla pianura da cui partono libri ma anche bambole o scarpe. E questo lo shopping della crisi. Sulla Stampa anche un'altra notizia, ve la segnalo. Parliamo lunedì, via dalla Libia il Consiglio Nazionale di Transizione, processeremo gli assassini del Rais. Nella notte l'ONU ha votato lo stop alla missione. Questo per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani. In edicola diamo uno sguardo anche al Secolo XIX, quotidiano di Genova, dopo quel che è successo. Più forti del disastro, titola oggi il Secolo XIX. Si scava nel fango a Borghetto, Monterosso e Vernazza alla ricerca dei dispersi dell'alluvione. Il dramma delle famiglie si somma alla rabbia di chi ha perso tutto. Il dramma dei dispersi, ma più forti del disastro, scrive il Secolo XIX. E allora lasciamo per un attimo le pagine dei quotidiani per tornare alle notizie di queste ore. L'avete sentito poco fa nel nostro aggiornamento del traffico. La buona notizia di questa mattina è che almeno hanno riaperto le autostrade dovrebbe pian piano ritornare possibile raggiungere questi luoghi. Resta ovviamente la polemica. La nostra Raffaella Calandra a Monterosso c'è stata, ha incontrato Luigi Grillo, senatore PDL, presidente Commissione Infrastrutture. È di Monterosso, anche la sua azienda agricola è stata danneggiata, è lui che ha voluto il Parco Nazionale delle Cinque Terre. Allora sentiamo cosa ci ha raccontato. No, ma guardi, qui la gente del posto ha sempre difeso questo territorio, questo paesaggio, perché hanno sempre capito che era una risorsa straordinaria, quindi non c'è mai stato l'assalto della speculazione, anche perché ricordavo poco fa non c'era via di comunicazione, quindi la gente veniva, c'era meno turisti. Però il parco dal 98 in Parlamento l'abbiamo trasformato dal parco regionale in parco nazionale. Quindi con vincoli ancora più stretti? No, con gli stessi vincoli che aveva il parco regionale, solo che il Ministero dell'Ambiente ci ha messo a disposizione maggiori risorse e quindi abbiamo potuto fare interventi di riqualificazione. Tutto si farà un po' carico delle richieste qui di Monterosso e degli altri comuni delle Cinque Terre? Non solo delle Cinque Terre, ma anche di Brugnato, Borghetto, Amelia, che sono stati ugualmente devastati e colpiti da questa terribile alluvione. E quando pensa in qualche modo di riuscire a avviare la pratica? Io già questo pomeriggio un appuntamento telefonico col ministro Matteoli, settimana prossima mercoledì sarò a Roma, mi attiverò in questa direzione. L'ultima cosa che le chiedo è, molti degli abitanti mentre spalano i detriti dicono qui c'era un torrente, adesso c'è la strada, forse se fosse rimasto il torrente con i vecchi canali la furia dell'acqua, della terra sarebbe stata diversa e non ci sarebbero state tutte queste distruzioni. Ma questa decisione, è bene sapere, è stata presa circa 50-60 anni fa. Questa via che è stata travolta dall'alluvione, ci sono i migliori negozi, i migliori ristoranti. Se nelle altre zone della Liguria in quegli stessi anni sono stati costruiti palazzoni, grandi condomini, in questa zona, come lei diceva, non c'è stato tutto questo, però forse è figlio di quella stessa cultura anche il fatto che sia stato coperto quel torrente. Una volta, parlando con un geologo molto aggiornato e molto preparato, mi spiegò che la più parte delle costruzioni realizzate negli anni 50 e 60 dovremmo demolirli tutti, i palazzi costruirli, allora demolirli tutti e ricostruirli perché non hanno i presupposti per tenere e per mantenersi a lungo, ma sa, allora la sensibilità e la cultura erano di un certo tipo, non credo che si possa fare un processo storico. Prendiamo atto che le cose sono andate così e cerchiamo di evitare possibili altre tragedie, altre ferite come quella di cui stiamo gestendo quest'oggi, e se dovesse accadere l'affrontiamo con grande impegno e serietà. Lasciamo la Liguria per un attimo, torneremo ancora ampiamente nel corso della giornata. Andiamo invece in Russia, dove riapre oggi il Tempio del Balletto Russo. Dopo 6 anni di restauro e 600 milioni di euro, il Bolshoi, lo storico teatro moscovita, ormai risplende come al tempo degli zar. Oggi si alzerà nuovamente il sipario per un galà che racconterà la sua storia nel corso dei secoli. Sul palco, tra gli altri, ci sarà anche Placido Domingo. Ebbene, Adriana Fracchi ha intervistato una ballerina italiana, Liliana Così, che debuttò e divenne una stella della danza proprio al Bolshoi negli anni 60. Per me è stato determinante per la mia carriera in maniera assoluta. Diciamo, dopo la mia formazione alla Scala, se io non ero al Bolshoi, loro mi hanno io sono stata al Bolshoi, che era una ballerina di fila. Io lì ho debuttato come prima ballerina, cioè ho trovato dei maestri che hanno creduto in me, creduto talmente tanto da aprirmi una carriera. Prima di tutto la maestra, la moglie di Messer Ertich a Mirno, e poi Yuri Grigorovich, il direttore del balletto, che ha deciso di darmi lo spettacolo a Palazzo Congressi Cremlino, nel Lago dei Cigni addirittura. Cioè, a una ragazza debuttante come ero io, con niente alle spalle, perché io ero lì come una stagista, chiamiamola, ma della Scala, però io ero ballerina di fila, no? Corpo di ballo. Ecco, e questo evento ha proprio aperto la mia carriera, a parte che dopo mi hanno invitato per centinaia di spettacoli, ma è stato proprio questo inizio, questa fiducia che mi hanno dato e che mi ha aperto la carriera. Vuol dire che, a parte l'istituzione, guardavano in avanti e i talenti per loro erano importanti, non era tanto la politica quanto i talenti, ecco, l'arte. Io questo ho un ricordo da un punto di vista artistico che mi rimarrà per tutta la vita, ecco. Quindi lei ci conferma in un certo senso che già allora bisognava andare all'estero per diventare famosi in qualche modo. Ma per me è successo proprio così, perché malgrado il diploma, che dopo il diploma a 18 anni dicevano che finalmente avevo una prima ballerina, però per 4 anni ero nel corpo di ballo, tanto che ero andata in crisi, dice qua cambio mestiere, no? Ero a questo punto. E invece ecco, al Bolshoi hanno talmente visto in me che io ormai in me non vedevo più nulla. Invece lì hanno visto nient'altro che una prima ballerina del loro livello. Desidero nel cassetto tornare al Bolshoi con la compagnia. Perché è un'esperienza, sarebbe una bella esperienza per chi ha lavorato con me. In realtà anche quello che io insegno l'ho imparato lì, da quei maestri. Dunque io sono sempre legata a quel mondo, a quelle persone soprattutto, perché erano dei grandi artisti. E questa sera il Bolshoi tornerà a splendere. Grazie da Adriana Fracchia. Prima edizione. E come sempre a quest'ora con Prima edizione è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina da Daniele Biacchessi. Oggi è il 28 di ottobre, la prima edizione di Italia in controluce. Il 31 di ottobre, quindi tra pochi giorni, chiude la Malaguti, una storica eccellenza del settore motociclistico italiano. Il reportage per Italia in controluce di Cristina Carpinelli. E scriveranno grande il tuo nome mentre il vento le trasporterà. Phantom Malaguti F12R, il tuo mito per sempre. La notizia che la Malaguti chiuderà a fine ottobre è arrivata lenta e appuntita nel ventre bolognese, già colpito da una profonda crisi che sta devastando quello che un tempo era la gloriosa Motor Valley bolognese, appunto. Le aziende del settore si stanno fermando una dopo l'altra, i lavoratori diventano disoccupati e l'indotto va a rotoli. Molti imprenditori attivi nel territorio apriranno sedi all'estero e così il mercato andrà avanti. Ma per quelli che restano fuori dai cancelli della Malaguti non è così semplice. Ma stiamo cercando di farci vedere per vedere se se si riesce a fare qualcosa, o comunque vogliamo dimostrare che noi ci crediamo ancora nella Malaguti e non accettiamo l'idea che un marchio così storico con dei prodotti buoni venga messo così alla fine dei suoi giorni, sia per colpa del mercato asiatico, perché ovviamente i motorini asiatici costano molto meno, e anche per altri motivi che, insomma, può essere sicuramente anche il fatto che loro non vogliono più andarci in perdita, non vogliono arrivare a fallimento, però sta di fatto che al 31 di ottobre la Malaguti, se non si trova un acquirente, chiude i battenti e noi siamo tutti mobilitati. I lavoratori, dunque, hanno fatto picchetti e rivendicato il valore della qualità del loro lavoro, argomento ormai lontano dai dibattiti sulla crisi e che invece è proprio il centro di tutto. La chiusura della Malaguti, il 31 ottobre 2011, significherà un disastro per l'intera area bolognese, dice il sindaco di Castelpietro, Sara Brunori. In effetti è un'azienda che soffre molto il mercato e la competizione con i grossi gruppi industriali e sta lavorando in un regime decisamente di sottocosto, sia nella vendita che difficoltà anche nella produzione e negli approvvigionamenti. Ciò non toglie che la preoccupazione come sindaco di perdere la realtà, una realtà produttiva aziendale così importante e storica del nostro territorio, è un grande dolore nonché una grande preoccupazione, soprattutto perché questa azienda impiega 170 lavoratori circa, prevalentemente del territorio circondariale, Castel San Pietro, Medicina, Castel Guelfo, Imola e qualche altro comune limitrofo. Era la prima edizione di Italia in Controluce, torniamo oggi alle 13.30. Grazie a Daniele Biacchessi come ogni mattina, ancora buona giornata come ogni mattina da Anna Migliorati. Prima edizione, noi vi portiamo da tutt'altra parte oggi, vi portiamo a Milano perché vogliamo raccontarvi un cantiere invece che parte. Verrà aperto ufficialmente questa mattina, l'appuntamento è alle 11 a Milano, il cantiere per Expo 2015. Io saluto Giuseppe Sala, amministratore delegato della società di Expo. Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Sala, oggi in qualche modo è solo una data simbolica con l'apertura del cantiere sull'area che ospiterà l'esposizione universale. Nella zona chi c'è stato sa che ci sono oggi solo prati e terreni, non c'è nessuna traccia di quella che sarà nel 2015. L'appuntamento però è importante perché arriva a 3 anni e mezzo dall'assegnazione, dopo liti, polemiche, fino a metterne in dubbio addirittura la realizzazione. Lei più volte in passato aveva sollecitato un cambio di passo. Possiamo dire che ci siamo arrivati sul filo di lana all'ultimo momento utile? Ma sì, quasi all'ultimo momento utile. D'altro canto non è che abbiamo aspettato in questi mesi solo l'inizio dei lavori. Abbiamo fatto anche altro, la testimonianza del lavoro cioè in questi 3 giorni di meeting con tutti i paesi che aderiranno all'Expo che abbiamo fatto a Como. Ecco, oggi c'è l'apertura del cantiere. In realtà la vera e propria prima posa dell'opera, come dicevo prima, è prevista solo nei prossimi mesi. Ma oggi faremo entrare le macchine, gli operai, cominceremo a mettere in sicurezza l'area. Diciamo che i primi 12 mesi serviranno per urbanizzare l'area, quindi pulirla, sistemarla, e nel 2013 sarà invece l'anno in cui si vedranno i singoli manufatti che cresceranno dal terreno. Quindi prima ci sarà anche il tempo per fare delle gare, perché ovviamente queste sono tutte opere che vanno messe a gara e sulle quali gli studi di architettura poi risponderanno con i loro progetti. Certo, a che punto siamo? Ma guardi, adesso il patrimonio nostro è questa grande adesione immediata dei paesi, abbiamo già 57 paesi che hanno aderito, è considerato quasi un record da parte dell'edizione cinese. Le aziende stanno cominciando a venire, abbiamo fatto una grande prima partnership con Telecom Italia, quindi rispetto a alcuni mesi fa la situazione si è indubbiamente molto molto migliorata. Chi diceva che la formula dell'esposizione universale ormai fuori dal tempo si sbagliava? Ma io penso proprio di sì, ripeto, il prodotto italiano per così dire continua a piacere molto all'estero, è chiaro che per il nostro paese questa è un'occasione per fare l'evento e quindi quello che si vedrà a Milano nei sei mesi, ma anche come enorme occasione di marketing territoriale. Guardi, noi in questi giorni abbiamo avuto i delegati di tutti i paesi a Milano e a Villa Erba, Cernobbio, e insomma l'atteggiamento di tutti i delegati da tutto il mondo nei confronti della nostra idea, del nostro progetto, è stato fantastico. E mi permetto di aggiungere un'ultima cosa. Sì. Il tema scelto per l'esposizione universale, il tema dell'alimentazione, è un tema estremamente attrattivo. È importante per le ricadute sociali e scientifico, ma gli stranieri lo associano all'Italia, alle bellezze d'Italia e ai valori dell'Italia. Ecco, Sala, fin qui un po' il quadro positivo. Ci sono però anche i nodi da sciogliere. Prima di tutto la partita che si sta giocando intorno alla figura del commissario per il Padiglione Italia. Ieri il ministro Frattini ha garantito che arriverà a breve. Si attende che la nomina arrivi ormai senza ulteriori ritardi? Ma speriamo di sì. Ma Frattini ieri ci è sembrato molto convinto e dalle sue parole traspariva che già qualche contatto c'è, quindi immagino che sia una nomina breve. Noi nel frattempo andiamo avanti con il nostro lavoro. E l'azzardiamo qualche nome? Questo proprio non glielo so dire. Posso dire quello che ieri ha detto Frattini, cioè ha parlato di una figura più manageriale che diplomatica e che conosca bene il territorio. Avrà dei nomi in testa sicuramente. È importante questa nomina, ovviamente è una parte del lavoro dell'Expo, però indubbiamente lo aspettiamo con ansia. Sala, parliamo anche di soldi, fondi pubblici. Ufficialmente non ci sono tagli, tutti gli impegni del governo verranno rispettati. Però senza una delega al patto di stabilità, lei più volte ha detto che si rischia di non farcela. Preoccupato? Guardi, tanto anche per spiegare agli ascoltatori quanto costa poi fare quest'Expo. Ci sono 833 milioni che sono messi dal governo. Sono stati messi tramite un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2008. Gli enti locali, e quindi Regione, Comune, Provincia e Camera di Commercio, dovrebbero mettere in questi 4 anni 400 milioni nel loro insieme. Sono soldi, è chiaro che la ricaduta, soprattutto per il territorio, di 20 milioni di visitatori sarà enorme. Gli enti locali hanno un problema che è legato appunto al patto di stabilità. Anche su questo il ministro Frattini ieri ha ribadito il suo impegno. C'è un problema anche con i fondi privati, anche qui siamo in ritardo? No, assolutamente no. Guardi, qui se le devo dire la situazione è positiva. Noi abbiamo lanciato un'unica gara, perché questi sono i tempi, ovvio, non possiamo lanciare gare prima che il progetto sia definito. Abbiamo lanciato un'unica gara, era una gara appunto per stabilire chi avrebbe fatto la rete di telecomunicazione e i relativi servizi. La base d'asta, per così dire, era 35 milioni, ha vinto Telecom Italia con 43 milioni, quindi l'unica gara che abbiamo lanciato, c'è stata una risposta immediata, in situazioni migliori di quanto ci aspettavamo, abbiamo molti contatti. Io qui invece sarei tranquillo, nel senso che le aziende italiane e internazionali stanno riconoscendo il valore del progetto. Ecco, quindi possiamo dire che si va avanti senza nessun compromesso al ribasso? Guardi, è chiaro che con i tempi che corriamo bisogna giorno per giorno rimettere in discussione tante cose, bisogna stare molto attenti, ma credo che il nostro ruolo sia quello di accorti gestori delle risorse pubbliche, però indubbiamente è importante che il governo in questi momenti di difficoltà, la decisione di non tagliare nessun fondo per Expo è molto significativa, quindi andiamo avanti con la tranquillità che ci caratterizza, con la determinazione che ci caratterizza e ci arriveremo e faremo un'opera straordinaria. Grazie allora per essere stato con noi, Giuseppe Sala, amministratore delegato della società di Expo 2015. Oggi si comincia, si apre il cantiere, buona giornata. Grazie, arrivederci. Prima edizione. L'avete sentito, hanno riaperto quantomeno le autostrade tra Toscana e Liguria, la vita che riprende in qualche modo cerca di andare avanti più forti del fango, come scrive oggi il Secolo XIX. Noi però a Monterosso ci siamo stati, c'è stata la nostra Raffaella Calandra che ha raccolto le testimonianze degli abitanti di Monterosso. Siamo riusciti a dare una mano anche ad altra gente che non alloggiava da noi, ma abbiamo avuto la possibilità di ospitarli durante questa tragedia. E questa è la cosa più importante. Poi tutto quello che c'è lo stiamo ricostruendo, lo ricostruiremo piano piano. Muri portanti, non c'è più nessuna parete qui ai piani bassi. Sono state tutte portate via dall'acqua. Ce la farete per la prossima stagione a riaprire? Il problema non è se noi ce la facciamo a riaprire, perché non è stato distrutto solo l'albergo. Come lei può notare, anche la strada principale è stata tutta divelta, quindi... Signora, lei come si è messa in salvo? Allora, mi sono messa in salvo che io uscivo da lì dove c'era la scala, siamo andate giù la furia dell'acqua mi ha portato via contro quella scala, il mio capo e il signore qua dell'enoteca a fianco mi hanno salvato, mi hanno preso tra i bracci e mi hanno tirato via dall'acqua, dunque quest'ora era un mare. Lei era proprio sommersa dall'acqua? Sì, sì, sommersa dall'acqua il fiume, perché è arrivato in un momento, cioè è stata una cosa improvvisa. Le persone più anziane dicono è peggio dei bombardamenti del 42. Cosa io di alluvione a Lermont ne ho visto due, ho visto quello dell'81, quello del 66, ma questa è stata... Perché poi noi siamo stati chiusi in una scala tutta la notte sino a ieri mattina, perché non potevamo uscire. Cioè era una cosa, sto fiume, io ce l'ho ancora nelle orecchie adesso, sto fiume di acqua, fango che... Una cosa impressionante, il rumore, il... E adesso verso quella che era la spiaggia ci sono tutti gli oggetti portati via. Abbiamo visto i nostri tavolini del bar, qua i nostri seggiolini del bar, tutto, i nostri divani, qua che avevamo nella hall, tutto giù in spiaggia. Così, le voci da Monte Rosso, continueremo ancora a parlarne nel corso della mattina, so che continuerai a parlarne anche tu Alessandro Milan. Eccoci, buongiorno, sì, avremo dal governatore della Liguria Burlando a testimoni appunto il sindaco di Monte Rosso, il sindaco di Vernazza, insomma faremo un viaggio a partire dalle 8:20 in queste zone duramente colpite. Nel frattempo stai nel guardando frattempo già i giornali, voce... la mia voce, guarda, dopo il tuo raffreddore c'è la mia voce, è scomparsa, vediamo di resistere. Allora, dai giornali ci sono ovviamente alcuni racconti, c'è molta politica come al solito, però alcune storie anche carine che vorremmo raccontare. La prima coinvolge Eros Ramazzotti, no? Il celebre cantante, che andrà a fare un concerto in Uzbekistan, considerato uno degli stati più repressivi, soprattutto sul fronte dei diritti umani. Oggi il Corriere si interroga sul fatto se sia giusto fare affari, anche dal punto di vista, non so, di andare a fare un concerto con delle dittature. Il manager di Ramazzotti ha risposto in maniera molto compiuta: ma io non so neanche dov'è l'Uzbekistan, però insomma ci hanno chiamato e quindi andrò lì e faremo questo concerto, che c'entriamo noi con i diritti umani, insomma l'Uzbekistan ci è vorrebbe stato un mappamondo dall'ONU, insomma, quindi va bene. Così, e poi tante altre storie curiose che troveremo spulciando i quotidiani. Come sempre alle 7:20 ti lascio con Viola Bottoni e Peter Bescapè. Con Prima Edizione invece facciamo una piccola pausa, così anche la mia voce si riprende. Beati, ci vediamo voi. Mercoledì, ci risentiamo mercoledì 2 novembre, tra pochissimo GR24. Buona giornata, buon venerdì da Anna Migliorati.